a un anno di distanza da quella che poi è stata la prima delle due alluvioni che hanno colpito la Romagna, possiamo dire che il problema più grande, il problema principale rimane quello degli sfollati, perché comunque parliamo di esseri umani, per cui il problema loro sono sempre la priorità. Ci sono ancora centinaia di persone che sono fuori casa, ci sono centinaia di case vuote, molte delle quali poi rimarranno probabilmente vuote perché sarà anche impossibile rifarle, soprattutto nella zona di Faenza, ma anche in collina, case che dovranno completamente essere rifatte, e famiglie che vivono, i più fortunati hanno trovato magari un appoggio da amici, da parenti, altri si sono dovuti rivolgere a degli hotel, delle strutture alberghiere, e chi poteva si è preso una casa in affitto. Però anche qui c'è il problema, che poi insomma c'è un po' in tutta Italia, dell'emergenza affitti, quindi si incrossano il problema alluvione col problema emergenza affitti. È difficile trovare una casa per gli alluvionati da affittare, intanto naturalmente perché comunque c'è chi magari sta ancora pagando il mutuo della casa che poi è alluvionata, dovrà anche rifarla e deve anche pagarsi un altro affitto, ma ci sono poche case in affitto, e soprattutto poi i locatari, quando scoprono che la famiglia è una famiglia alluvionata, sono anche un po' restii, perché hanno paura che non riusciranno poi a far fronte a tutte le spese. E poi c'è il problema dei ristori, i ristori che non arrivano, la famosa promessa, no, di ristori al 100% dell'anno scorso, al momento è ancora un miraggio. C'è questa piattaforma, che è la piattaforma Sfinge, quella per presentare le pratiche per i rimborsi, che è una piattaforma, ce lo dicono tutti, ce lo dicono gli alluvionati, ma ce lo dicono anche gli stessi sindaci, è una piattaforma estremamente complicata, penso gli stessi geometri, i periti che dovrebbero compilare le richieste, no, per gli alluvionati, si rifiutano di farlo proprio perché è molto complicato e temono anche di sbagliare. Poi certo. i beni mobili al momento non sono previsti nei rimborsi, per cui chi si deve rifare una casa deve anche pagarsi tutti gli arredamenti, tutti i mobili da solo. E le famiglie alluvionate in questo momento hanno ricevuto il CIS, che è il contributo di immediato sostegno, che sono 5.000 euro circa. Chi è andato in affitto, chi ha trovato un'abitazione, il CAS, il contributo di autonoma sistemazione, però con 5.000 euro, con un aiuto per l'affitto, non vai da nessuna parte, anche perché appunto se poi dopo devi rifarti la casa. E tra l'altro anche rifarti la casa non è così semplice, nel senso che anche chi può permetterselo, c'è chi vive in zone in cui dice, cioè effettivamente io non me la sento di spendere centinaia di migliaia di euro per sistemare casa, per rifare la casa, senza un piano ben preciso di messa in sicurezza del territorio, che ancora manca, quindi anche questo è un altro problema, no? Anche le aziende colpite sono ancora in difficoltà? Sì, anche le aziende hanno ricevuto, come le famiglie, insomma, alcuni ristori, ma anche qui la promessa, no, di rimborseremo tutti, daremo fino all'ultimo centesimo alle famiglie, alle aziende, siamo molto lontani da questa promessa, ed è passato un anno, per cui capisci che anche per un'azienda riuscire a stare in piedi, riuscire a pagare gli stipendi ai dipendenti, risulta molto difficile. La questione della messa in sicurezza del territorio, stanno partendo cantieri, si sta facendo qualcosa? Sì, la regione ha già messo in atto centinaia di cantieri un po' in tutta la Romagna alluvionata, alcuni di questi sono già partiti, altri sono ancora in divenire, quindi non si sa bene quando partiranno, però anche qui è passato un anno. La paura che ci riferiscono i cittadini alluvionati, ma anche chi non è stato effettivamente colpito dall'alluvione perché si è risparmiato per un pelo, quindi si è visto l'acqua arrivare magari alla porta di casa, si dicono un'altra alluvione potrebbe esserci da un momento all'altro. Cioè, è passato molto tempo, è chiaro che certe pratiche, la burocrazia, poi appunto come abbiamo visto è una burocrazia molto complicata e molto lenta, richiedono del tempo, però sono tempi che si stanno insomma allungando molto. Secondo me un anno fa non avremmo mai immaginato che saremmo arrivati, no, 365 giorni dopo, con ancora così tante cose da fare, con ancora tante famiglie fuori casa, tanti rimborsi da fare, tanti cantieri da far partire. Quando appunto ci fu l'alluvione, forse anche con un po' di retorica, e molti sostenevano in questo spirito, come dire, gioviale anche dei romagnoli, che si rimboccano le maniche per risolvere il problema, l'umore a un anno di distanza com'è? L'umore sicuramente non è quello di un anno fa, nel senso che, come hai detto tu, si è partiti come siamo abituati a fare in Romagna, con molto ottimismo, ci si è rimboccati le maniche e si credeva anche, cioè, si credeva, c'erano tante promesse, poi c'era chi effettivamente già allora diceva ma sono promesse che vedremo insomma se verranno mantenute, però insomma si è fatto quello che si poteva fare, quindi ciascuno di noi ha fatto la sua parte per quanto possibile. È chiaro che a un certo punto il cittadino si deve fermare, non può fare più di tanto, ma sono le istituzioni che dall'alto devono far arrivare i loro aiuti, i cantieri, le programmazioni, quindi l'umore sicuramente è un po' più rassegnato, no? E c'è chi pensa effettivamente io non tornerò mai a casa, c'è chi si è rassegnato a questa cosa.